5 e. Ascolta e trasforma. Sarei felice di aiutarvi. Saremmo felici di aiutarvi. Avrei bisogno di una mano. Avremmo bisogno di una mano. Direi la verità, ma è meglio tacere. Diremmo la verità, ma è meglio tacere. Farei una passeggiata, ma piove. Faremmo una passeggiata, ma piove. Starebbe volentieri a casa, ma deve andare al lavoro. Starebbero volentieri a casa, ma devono andare al lavoro. Verrebbe qui con piacere, ma oggi non può. Verrebbero qui con piacere, ma oggi non possono. Vorrebbe guidare, ma ha dimenticato la patente in ufficio. Vorrebbero guidare, ma hanno dimenticato la patente in ufficio.